Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato di novembre che qui almeno a Milano è bello rigido, compiace a me, il bel freddo. Ho i compari dei Conti della Belva con me qua in studio. Carlo Alberto Carnevale Maffè. Renato Cifarelli. Mentre tra poco si collegherà con noi, è collegato con noi anche a telefono Mario Seminerio. Buongiorno Mario, anche a te. Eccoci, buongiorno a tutti. Incredibile, guarda che meravigliosa qualità del collegamento. Ha una voce più perfettamente limpida di quanto sta in studio. Allora, noi compari dei conti della Belva. No, beh, ragazzi, questo apparato di grandissima innovazione tecnologica al Sole 24 Ore, voglio sottolineare e ringraziare il nostro editore. Non so ancora per quanto, ma comunque lo voglio ringraziare. Beh, allora, se l'ha pagato Microsoft, non è per dire Skype, cosa stai dicendo? Cioè... Non è Skype, è la tecnologia italiana. Non iniziare a fare chi inneggia adesso. Le cose straniere in questo giorno che sarà, come ascolteranno i nostri ascoltatori, prodigo di argomenti a fuori della fortezza della solidità incrollabile del sistema bancario italiano, a cominciare da MPS. Non cominciare tu a fare gli elogi degli stranieri, perché qui bisogna stare quadrati come una sola legione a difendere l'Italia. Sto scherzando, cari ascoltatori. Allora, Carlo Alberto, adesso che è andato via Renzi, cosa diventa? No, adesso ma ragazzi, diciamo ai nostri ascoltatori qual è il tema della puntata e invitiamoli a telefonare come sempre 800 24 00 24 per le opinioni 349 238 6666. La puntata comincia come al solito tra poco con la rubrica del nostro indefettibile Mario Seminerio che punta la crisi. E la crisi, come vedete, in realtà ha avuto un bello sviluppo, visto che poi il governo Renzi, dopo il voto di domenica scorsa, si è dovuto dimettere. Ci sono in corso le consultazioni. Oltre all'aggiornamento dei numeri macro della crisi in Italia e qualche osservazione su quello che avviene all'estero, perché all'estero continua a vedere cosa, ovviamente la trasmissione ha due grandi parti. La prima è quella in cui tenteremo un bilancio e un'analisi dell'eredità economica del governo Renzi, appunto, e sarà con noi Filippo Taddei, il responsabile economia del PD. Nella parte successiva, dopo il radio delle 11, udite, lo so che non ve l'aspettate, ma ci occuperemo di quello che avviene al Monte dei Paschi, al sistema bancario italiano. Vedremo come lo commentano i giornali italiani, ma vedremo soprattutto che cosa c'è da attendersi, cosa c'è da temere, i giudizi che daremo sul fatto che si è atteso inutilmente per 7 mesi almeno, dopo anni di errore su MPS, abbiamo aspettato altri 7 mesi inutilmente, appendendo la vicenda della ex terza banca italiana, che è una banca che resta in condizioni di piena solvenza, ha un reddito operativo, non dimenticatevelo. Però detto tutto questo, quello che era noto 7 mesi fa dopo Stresses è la stessa cosa di oggi, e la politica ha deciso invece di farne un banco di prova per un risultato del referendum che con questa storia non c'entrava nulla. E dopo aver detto agli investitori istituzionali, se però vince il no, fatevi da parte, beh, è inutile stupirsi che qualunque realistica disponibilità fosse stata accertata, comunque è sparita come neve al sole. E a questo punto bisogna fare quello che bisogna fare. Ne parleremo. E oltre a tutto questo, sentiamo però un primo giro di altre cose che hanno colpito i nostri compari dei conti della Belva in questa settimana. Mario. Guarda, io voglio segnalare che dal 10 gennaio le tariffe postali aumentano. Tu dirai, è una grande novità. Ebbene sì. Allora, la raccomandata per l'Italia nella prima fascia di peso, nel primo scaglione di peso, passa da 4,50 a 5 euro. Faccio notare che un anno fa costava 4 euro. Quindi con un complesso algoritmo la tariffa in un anno per la raccomandata è aumentata da 4 a 5 euro, cioè del 25%. 25%! Esatto, quindi io devo dire che non è solo Mario Draghi che lotta contro la deflazione, ma anche Francesco Caio ce ne mette di suo. Beh, tu sai che però, la componente tariffe pubbliche di tutti questi anni è stato il grande contributo dello Stato alla lotta contro la deflazione. Ecco, vabbè. Eh sì, Oscar, però guarda, io ho fatto una piccola ricerchina avendo qualche minuto da sbatter via e ho visto che oltre all'aumento secco della tariffa in quanto tale, c'è stata anche una segmentazione dell'offerta, perché parliamo di tempi di consegna, la raccomandata viene garantita, consegnata tra 4 e 6 giorni oltre a quello di spedizione. Ripeto, da 4 a 6 giorni oltre quello di spedizione. Tempo fulmicotonico. Esatto, perfetto. E la stessa fine che fece la famosa posta prioritaria, ricorderai, no? Che è passata da 70 a 95 centesimi, anche quella consegna, tra molte virgolette, garantita in 4 giorni. Allora, che cosa devi fare? Se vuoi la consegna il giorno dopo, utilizzi un altro prodotto, perché qui il marketing ha colpito alla grande, usi un altro tipo di raccomandata, consegna garantita in un giorno, che costa oltre 6 euro. Se vuoi l'avviso di ricevimento, che si chiama prova di consegna, paghi 9 euro. Quindi, Mario, c'è stata questa... Guarda che ormai le raccomandate le usano solo per le multe, quindi più tardi arrivano meglio, eh. No, però parliamo anche del fatto che il Poste Italiane ha mantenuto la riserva nella consegna di atti giudiziari, decisa dal Parlamento quando in occasione della cosiddetta famosa privatizzazione. Per cui c'è da riflettere. Ora io sento già gli ascoltatori, i messaggi, anche se non li vedo, ma li vedo che dicono ma ci sono le poste private, la PEC e quant'altro. Ma siamo seri. Siamo seri, cioè con l'infrastruttura digitale e la cultura, come dire, digitale di questo paese, parliamo di PEC, cioè lasciamo perdere. Ora io capisco che c'è un calo dei volumi di corrispondenza di ogni tipo, però andare a compensarlo semplicemente con aumenti brutali delle tariffe in questa maniera mi sembra abbastanza ridicolo, cioè sono capace anch'io di fare il super manager con il fondo schiena dei consumatori, che poi diciamo Poste debba garantire dei dividendi robusti, soprattutto al suo nuovo azionista totalitario che è la Cassa Depositi e Prestiti, che non se la passa benissimo già di suo, parliamone, ecco. Questa e è un po' una avvelenata. E questa settimana, infatti, un po' l'avvelenata, ci è andata bene, caro Carlo Alberto, perché sì, almeno non gli hanno dato anche Pioneer a Poste, per fortuna, perché il rischio era molto forte, sarebbe stato un conflitto di interesse grandiosamente censurabile, e per fortuna non è andata così. Caro Alberto, tu visto che hai citato Pioneer, mi tocca citare invece la caduta degli dèi, cioè proprio Unicredito che vende i pezzi migliori dell'Europa. Purtroppo. A me dispiace, perché ricordo anche quando partecipò alla privatizzazione di Banca Pekao, e fu invece segnale di un'Europa che si apriva, di un'Italia che stava crescendo, di un blocco socialista che finalmente metteva in discussione i suoi pezzi. E vedere che Mustier, peraltro senza grandi alternative, sta vendendo i gioielli di famiglia non è una bella soddisfazione, anche perché dà un segnale di arretramento nei confini nazionali di quella che era l'unica banca che ha avuto il coraggio e l'ardore, e anche come si è preso tutti i rischi, parliamoci chiaro, di incarnare un modello di banca europea. Quindi onore e onere a chi di Unicredito ha fatto questo progetto. Stiamo a vedere, perché in realtà questo ritorno verso i confini nazionali un pochino mi spaventa, caro Oscar. Vediamo cosa succede. Però fammi citare una cosa invece che mi ha fatto piacere. È uscita ieri la previsione del fatto che i social media supereranno i quotidiani come ricavi pubblicitari entro un paio d'anni. È una informazione molto importante. Stiamo parlando di una settantina di miliardi di dollari, tanto per capire. In Italia siamo un po' più indietro rispetto a questo, però è un segnale importante che le ristrutturazioni dei quotidiani dei gruppi editoriali non si possono basare solo sui costi, devono prendere atto del fatto che sono cambiati i modelli di ricavo pubblicitario. E chiunque voglia collegare queste aure parole di Carlo Alberto Canale Maffè con la condizione del gruppo di tre sole 24 ore, sappia che non sbaglia. Ecco, questo è il nostro messaggio all'editore e all'amministratore delegato. Vatti a vedere queste cifre, caro Moscetti, e vedrai che per quanto tu possa far rotolare teste, magari le nostre come prime, ma il problema è un altro, caro mio, il modello per generare revenues. No, comunque noi il PIL lo facciamo, ricordo che Radio 24 il PIL lo facciamo. È in condizioni assolutamente ottime dal punto di vista del conto economico, anche perché non spende una lira in tecnologia, quindi va benissimo Radio 24. Bisogna però prendere atto che i ricavi pubblicitari, in un mondo che cambia, devono cambiare anch'essi, altrimenti ce la si prende con la globalizzazione o con l'euro o con la Germania o l'Europa cattiva, e non si guardano i fenomeni fondamentali della società e dell'economia. Ok. Ah, io, guarda, sistema elettorale, cioè la confusione... Sistema elettorale, cioè, adesso tu in 10 secondi cosa vuoi dire sul sistema elettorale? La confusione che si è creata dal no al referendum, perché sono contro il sistema elettorale, e adesso ci ritroviamo col sistema elettorale che avevamo bocciato nel 1993 col referendum, a me fa ridere. Piangere, ci sarà poco da ridere, vedremo comunque, vedremo. Cari ascoltatori, come avete visto, qui non c'è nessuna esultanza, non stiamo festeggiando niente in particolare, no, perché molti dicono, ecco gli antirenziani, noi prendiamo atto con un certo disincantato scetticismo che i governi cadono, che le scommesse dei politici sono malfondate, che le banche non erano affatto solide come vi dicevano, e siamo qui per il resto della trasmissione ogni tanto a ricordarvi che c'era chi ve l'aveva detto, però porca di una miseriaccia! Ecco, torniamo tra un minuto. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, parte la sigletta del nostro Che punto è la crisi. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua. Allora Mario, da cosa cominciamo sugli aggiornamenti macro di questa settimana in Italia e fuori? Guarda, io per quanto riguarda l'Italia... Ho visto che appunto Istat ha pubblicato i dati trimestrali al terzo trimestre del mercato del lavoro italiano, e questo è importante perché con i dati del terzo trimestre diventa disponibile anche una maggiore disaggregazione, sì. Una maggiore analiticità nel fondamentale, imprescindibile, detto senza ironia perché è uno strumento eccezionale, database Istat con tutte le statistiche economiche del paese. Allora, sono andato a guardare la disaggregazione, cioè come sono variate le statistiche di disoccupati e inattivi dal terzo trimestre 16 al terzo trimestre 15, e ho trovato delle correlazioni abbastanza interessanti. Allora, si è detto che c'è un numero molto eclatante, in un anno 528.000 inattivi in meno. Che è un numero clamoroso che di solito viene utilizzato dal governo uscente e non ancora uscito a riprova della ripresa di dinamismo del mercato del lavoro italiano. Però l'inattività va scomposta nelle sue componenti costitutive. Ad esempio, gli inattivi per scoraggiamento nell'ultimo anno sono diminuiti di quasi 200.000 unità, e questo è sicuramente un dato molto positivo. Poi, andando a vedere anche l'altra grande categoria di inattivi, cioè i pensionati, quelli a cui non interessa cercare lavoro anche per motivi di età, questa categoria di inattivi è calata di 142.000 unità nell'ultimo anno. Anche questo è molto importante, perché che significa questo? A mio umilissimo modo di vedere, questa è la conseguenza del fatto che l'età media di pensionamento sta aumentando. E quindi entrano in questa specie di vasca degli inattivi da pensione persone. Quindi c'è una componente demografica e una componente legale, istituzionale, legata all'innalzamento dell'età pensionabile, che sta impattando, facendo ridurre in modo significativo il numero degli inattivi. Ma allora, torniamo un attimo su questo discorso, no? Quando si dice, ma allora non è vero che, diciamo, tutti questi inattivi, cioè gli inattivi stanno tornando sul mercato del lavoro, lo scopriamo e lo confermiamo perché sono aumentati i disoccupati. Effettivamente, cioè se uno smette di essere inattivo e si iscrive al collocamento o compie delle azioni di ricerca di lavoro, il numero dei disoccupati rilevati dall'Istat aumenta, e infatti nell'ultimo anno sono aumentati di 131.000 unità. Quindi anche qui sembra che la tesi governativa sia suffragata e confermata. Però andiamo a vedere un altro elemento, cioè quanti erano praticamente i disoccupati provenienti dall'inattività. E scopriamo che quest'anno sono stati 557.000, esattamente un anno fa lo stesso identico numero. Quindi questo cosa vuol dire? Che non è vero che gli inattivi sono rientrati sul mercato del lavoro iscrivendosi alla disoccupazione o compiendo delle azioni di ricerca di lavoro. Questo è abbastanza importante da sottolineare. Poi se andiamo a vedere i disoccupati, e dopodiché finisco perché sono veramente tanti numeri, andiamo a vedere invece quanti sono i disoccupati non provenienti dall'inattività, ma quelli che hanno perso il lavoro. In un anno questi sono aumentati di 44.000 unità. E questo non è un dato positivo, perché se su 130.000 disoccupati in più non ce ne sono provenienti in aumento dalla inattività, ma ce ne sono circa un terzo che derivano la loro condizione di disoccupazione dal fatto che hanno perso il lavoro, vuol dire che il nostro mercato del lavoro non è così vitale come viene dipinto. Non solo. Se guardiamo i disoccupati di lungo termine, che per Istat sono quelli che sono tali da più di 12 mesi, vediamo che in un anno ce ne sono 51.000 in più su 131.000. Quindi che vuol dire questo? Per l'ennesima volta non c'è traccia statisticamente visibile di una riattivazione del mercato del lavoro, cioè non c'è una riduzione del numero dei disoccupati di lungo termine e non c'è un aumento degli iscritti al collocamento che provengono dall'inattività, cioè che stanno cercando lavoro. Mi rendo conto che sono numeri che possono apparire abbastanza ostici se ci mettiamo a fare la classica polemica da bar solamente parlata o sulla narrativa, però siccome i numeri servono, perché servono anche a fare il debunking delle leggende metropolitane, mi pare che questi siano dati molto importanti. Il miglioramento del mercato del lavoro è frutto del miglioramento lieve della congiuntura, ma anche di potenti dinamiche demografiche che sono in corso. E questa è una cosa con la quale qualunque governo, non solo quello Renzi, ma anche quelli che gli succederanno, dovranno fare i conti. Allora, una disamina, come avete sentito, rigorosa. La radio, purtroppo, lo sai Mario, dopo un po' quando si intrecciano troppi fenomeni e troppi numeri ha dei problemi di ascolto, però questo dà l'idea. Il rumore che sentiamo si deve al collegamento Skype o a che cosa? Non lo sappiamo, sì, no, lo dico per i nostri ascoltatori, calma, non c'è nessun terremoto Richter dell'ottavo grado in corso qua. Politicamente parlando un pochino sì, però dai, stiamo... Politicamente parlando avviene la cosa più naturale del mondo: quando un governo fa una scommessa troppo alta rispetto alle sue possibilità, perde e va a casa. Scusate, lo so che molti colleghi sui giornali hanno raccontato questa cosa come se fosse la fine del mondo, e anzi non è ancora recuperato un tono di equilibrio, perché sembra che l'Italia, priva della guida precedente, sia destinata praticamente al Venezuela, cosa che ho letto addirittura sui giornali italiani. Vediamo, noi ci siamo limitati semplicemente, non avendo nulla in contrario di pregiudiziale, a criticare parecchie scelte di questo governo. Adesso vedremo, siamo sufficientemente disincantati da non aspettarci miracoli, purtroppo, e soprattutto siamo colpiti da come alcune vicende concrete, come quella bancaria, siano state oggetto di scommesse collegate alla politica. Bisogna tenerle ben separate, sono problemi molto più seri. Però Mario, diciamo anche che in realtà il governo che si trova a nascere eredita, da questo punto di vista, una condizione internazionale, intanto, che va sottolineata, che è più favorevole rispetto a quella che c'era ed era in corso quando il governo uscente nacque. Tutto sommato, se uniamo il fenomeno Trump, che non significa abbracciarne o non vederne tutti i difetti, però l'effetto che ha sui mercati e segnali che vengono dalla congiuntura internazionale, in effetti questo fine 2016 e inizio 2017 è un po' meno peggio di quanto ce lo si aspettasse, non è così Mario? No, assolutamente, sono d'accordo. Sui mercati già era in corso una riattivazione dell'attività economica che si vede in tutti gli indicatori, come dire, precoci, i cosiddetti nowcast. Ora aspettiamo l'insediamento di Trump e le sue misure di politica fiscale male, mi pare di poter dire che alla fine sì, potremmo avere un 2017 almeno i primi trimestri, i primi due trimestri eccetera, abbastanza buono sul piano espansivo. Poi diciamo anche due parole rapide sulla BCE magari, se sì, giusto, tempo. Giusto, sì. Allora, la BCE da aprile ridurrà da 80 a 60 miliardi gli acquisti di titoli di Stato, però gli acquisti proseguiranno fino al 31 dicembre 2017. Quindi si è detto, io stesso a caldo l'avevo interpretato come una sorta di compromesso, no, tra Draghi e i falchi tedeschi o comunque del nord. Poi però se si va a vedere un altro dato, si vede che la BCE ha tolto il limite minimo di acquisto. Prima si poteva comprare titoli che rendessero più del famoso meno 0,4% e a partire da 2 anni di scadenza. Adesso a partire da 1 anno e non ci sono più vincoli. Cioè si può comprare anche un titolo di Stato che rende meno 1%, per dire. I beneficiari immediati di questa nuova misura sono state chiaramente i Bund tedeschi, perché loro sono, quotano già con un rendimento fortemente negativo. La curva dei Bund tedeschi è diventata ancora più ripida e questo sosterrà le banche tedesche, quindi probabilmente avremo un po' di lamentele in meno da parte dei tedeschi. Era un prezzo da pagare, diciamolo così. Sì, è probabile. Comunque, diciamo, in questo momento, sulla base delle informazioni disponibili, diciamo che ci aspetta forse un 2017 non così, come dire, negativo. E allora lì si vedrà quanto è la capacità di questo paese di galleggiare su questo sbuffo di ripresa che arriva da oltreoceano. E questo lo vedremo naturalmente anche perché quando capiremo il Quirinale, se si è fondato o meno chi sta dicendo che l'indirizzo del capo dello Stato è quello di un governo guidato dal ministro degli esteri attuale, non visto male da Renzi, non visto male dal resto delle correnti interne del partito, con un mandato non strettissimo, perché il Quirinale sottolinea che i tempi per la legge elettorale non saranno brevissimi, per così dire. Sottolineo che questo fine settimana non c'è il decreto sulle banche, non c'è, per un misto di fattori che vedremo più avanti, cioè da una parte capire meglio fino a dove ci si può spingere nell'interpretazione di un intervento alla luce della direttiva europea dell'articolo 32, che come vedremo è quello in cui ricadiamo, dall'altra perché il Quirinale appunto ritiene che sia meglio se il decreto venga adottato da un governo pieno e non da un governo dimissionario. Nel decreto non c'è solo la dinamica dell'intervento sulla Monte dei Paschi, perché sono tanti i pasticci aperti in campo bancario. Bisogna capire come rispondono alla sentenza all'ordinanza del Consiglio di Stato che rinvia alla Corte Costituzionale il problema del costituzionale o meno del regolamento della Banca d'Italia, che è intervenuto molto pesantemente limitando il diritto di recesso e quindi la facoltà di pieno rimborso per le banche popolari che diventano SPA, e c'è una fortissima tutela verso la Bari, che è molto cara alla Banca Italia e che ha l'assemblea per deliberare la trasformazione in SPA il 27 dicembre in seconda convocazione, e si parla addirittura di alzare nel decreto adesso il limite di attivi patrimoniali, caro Carlo Alberto, per la trasformazione in SPA, così Bari e Sondrio vengono tirate fuori, ma questo però non risolve minimamente la possibilità di affare a quel punto impugnative di massa per Veneto e Vicenza, che è il problema vero, che hanno risolto il problema 1 anno fa, ma a quel punto non si capisce perché ci devono essere figli e figliastri, per così dire. E butto lì una cosa, c'è la necessità di reintervenire con un'altra annualità per il fondo interbancario di garanzia, questa geniale idea italiana di mettere a carico delle banche sane i costi di risanamento di quelle inguaiate, che come si vede anche con il caso MPS è stata sì la via istituzionale preferita al regolatore italiano, ma a costi molto più ampi dello swap, cioè della conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, che è la via plana stabilita per queste cose dalle regole europee. Ma all'Italia non piace. I giornali italiani oggi tronfi dichiarano che c'è un grande scandalo perché ieri la BCE ci ha trattato in maniera indegna e così via, eccetera eccetera. È una retorica ridicola, diciamolo, ridicola, che continua a non vedere i problemi e le responsabilità del nostro paese, dei regolatori italiani, nell'aver consentito per anni di ficcare in tasca ai retailers, cioè agli investitori familiari, alle famiglie, ai risparmiatori, non agli investitori, che però facevano gli investitori, come tali andrebbero trattati i titoli subordinati, e che continuano a dire che a questo punto è colpa degli altri se è avvenuto. Vabbè, comunque, torniamo tra un minuto. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, cari ascoltatori di Radio 24, 10:37 primi e 20 secondi. Avete sentito la sintesi, insomma, del quadro dei segnali macro italiani ed europei e mondiali, un quadro, devo dire, non dei peggiori negli ultimi anni, anzi con segni evidenti, vedremo quanto consolidati poi strutturalmente, però di moderata ripresa sui mercati, è un po' anche l'effetto Trump. Abbiamo dato un'interpretazione alla luce dei dati trimestrali Istat dei fenomeni, diciamo, di lungo periodo, quelli più strutturali in atto all'interno del mercato del lavoro, per come possiamo interpretarli, e ora passiamo a una questione di fondo, cioè bilancio, breve bilancio e considerazioni intorno all'eredità per il prossimo governo, per il 2017, dei mille giorni di governo Renzi. Io accetto, sono molto contento che Filippo Taddei, responsabile economico del PD, che spesso abbiamo avuto a questi microfoni, abbia accettato di stare con noi per un po' di minuti per darci la sua opinione su questo. Buon sabato mattina, Filippo. Buon sabato mattina a voi, radioascoltatori. Allora, Carlo Alberto, che la tua domanda, Filippo. Gli chiediamo se può tirare un bilancio della comprensibilità delle scelte economiche di Renzi rispetto a come ha votato l'opinione pubblica, che evidentemente non ha votato eminentemente il quesito referendario, ma insomma, ha espresso un parere, diciamo, laterale. Come giudichi quello che è passato nella testa degli elettori italiani dei mille giorni di Renzi? Penso che quello che ci hanno ricordato, che ci ha ricordato quel voto, è che è un voto che ha naturalmente una valutazione sulla riforma istituzionale, in particolare sugli aspetti che sono stati enfatizzati di quella riforma, abbia naturalmente anche un voto per quello che si è diventato anche un voto su quella che era la percezione generale del governo. Non doveva essere così, è un po' un peccato, insomma, utilizzare uno spazio di democrazia per la riforma costituzionale, su cui ognuno può avere le sue opinioni, per fare una sorta di micro sondaggio sul governo. Però posso dirti che è colpa anche colpa. Ecco, la responsabilità primaria è di chi ha cominciato. Chi ha cominciato poi, sì, insomma, su chi è cominciato magari mi si dice. Comunque diciamo così, ci mi assumo la mia quota parte di responsabilità. Certo, c'è da dire che, come al solito, noi scopriamo che in questo paese, se nella politica di questo paese il PD, o il PD è l'unico partito nazionale, quindi se il PD commette gli errori non c'è nessun altro certo che è in grado di correggerli, quindi piaccia o non piaccia c'è un unico partito che in questo paese nel bene e nel male guida la politica, e speriamo, insomma, di farlo più nel bene. Comunque quel voto, naturalmente, e io volevo, stando alla vostra domanda, vorrei dargli una lettura economica. Lasciamo da parte tutti i temi istituzionali, lasciamo da parte il fatto che abbiamo perso la più grande occasione di rendere il nostro Stato efficiente, di poter portare dei benefici concreti ai cittadini per quello che riguarda la politica sociale, le politiche del lavoro, la politica energetica, la politica infrastrutturale, cioè tutto quello che passava per il titolo quinto era enormemente importante. Non l'abbiamo spiegato abbastanza, i cittadini non l'hanno apprezzato abbastanza, è colpa nostra, non è colpa di nessun altro, però abbiamo perso una grande occasione. Guardate che d'ora in poi, quando voi sentirete per gli anni a venire le discussioni, i conflitti di Stato-Regioni su l'infrastruttura tale o l'energia di tal'altra, o il conflitto che ci sarà inevitabilmente sull'assegno di ricollocazione, il primo strumento vero di politica attiva di questo paese introdotto da questo governo, sappiamo che tutti quei conflitti hanno una radice costituzionale molto chiara. Potevamo risolverlo, non l'abbiamo fatto, è colpa nostra, i cittadini hanno scelto. Però naturalmente questo ci ricorda un'altra cosa, ci ricorda che in realtà conta un tema che in realtà emerge anche dal dibattito americano, che non conta solamente

quello che poi l'ho reso insopportabile e che adesso arma le mani di chi nella difficoltà finalmente prorompe, magari gli stessi che dicevano a noi che rompevamo i coglioni perché eravamo gufi, perché poi gli italiani sono un po' così. Però detto questo, che i collaboratori ristretti, ne parlavamo prima, cari compari, non ce la fanno a criticare Renzi, è più forte di loro, e questa è una caratteristica della leadership renziana. Però devo dire che, allora, per esperienza personale, quando poi tu sei dentro un meccanismo, sì, tutto sommato, siccome sai anche da dove nascono certe scelte, quindi io ti faccio l'esperienza di Confindustria, certo, dove ne ho avuta di più di politica, dove nascono certe scelte, i compromessi che sono nati, eccetera, diventa anche, cioè tu interiorizzi quello che fai, hai capito? Sì, sì, però è vero che ci sono dei momenti di rottura nei quali, nella vita dei partiti, gli accoltellamenti e gli eccessi di critica sono l'ABC quotidiano, ma si rompono, si disallineano, si manifestano delle crepe anche all'interno delle cerchie più ristrette dei collaboratori. E viene il momento in cui si dice, beh, in effetti non ci ha voluto ascoltare, ma invece Renzi ha questa caratteristica. Però, sai, io non so se sia una caratteristica molto positiva, perché può diventare un ambiente, come devo dire, estremamente chiuso ed estremamente impermeabile a obiezioni critiche fondate. Io credo che la vera leadership sia ascoltare anche gente con opinioni diverse, saper fare squadra e saper cambiare l'impostazione di fronte a numeri e fatti. Questa io credo che sia la grande leadership. È la più rara di tutte, La leadership più diffusa è quella di chi comanda urlando, ecco, dicendo sono io il capo. In questo senso, il vento del cambiamento che colgo dal Quirinale e che magari stasera ci indirizzerà verso il Conte Gentiloni Silverico Lagei, ricordo dire, forse porta un po' di garbo, un po' di ascolto, sì, di vecchia politica democristiana. Sì, io non so quanto scusate, però sto vecchio. Però su una cosa io ormai ho una certezza, che il vecchio detto moriremo democristiani. No, vabbè, dai, no, mani, adesso gesti apotropaici, che i nostri ascoltatori è meglio che non vedano, ma si limitano a immaginare. Sentiamo qualche opinione di ascoltatori, poi andiamo dritti al cuore delle banche, dove dovremmo essere precisi, taglienti e sintetici, perché i temi sono tanti e invece i minuti sono pochi. Fabrizio da Torino. Fabrizio, prego. Buongiorno. Buongiorno. In parte ha già risposto Giannino alla mia obiezione. In esordio del suo intervento Taddei ha usato un escamotage oratorio per dire: è vero, ci prendiamo la colpa, però se ne accorgeranno gli italiani che nei prossimi anni con questo tono da ultimo giorno, da giorno del giudizio, che se ricorda padre Cristoforo quando a un certo punto alza il dito verso il regno e dice giorno verrà in cui, esatto, mi è venuto in mente mentre ero parlato, mi ha evocato i lontani anni del liceo, mio caro concittadino Giannino, insomma, questi signori, se non riescono a uscire da questo circolo vizioso in cui si sono infilati pensando di essere i depositari della verità assoluta, non andranno da nessuna parte e si danno le risposte da soli al fatto che abbiano perso il referendum. Grazie e buona fine di settimana. Grazie Fabrizio, anche a te salutami Torino. Benedetto invece, che ci chiama da Montenero di Bisaccia. Ai, oh! Questo Montenero di Bisaccia, ve lo segnalo, è il paese in cui è il paese di Pietro Montenero di Bisaccia. No, adesso è il paese di Pietro, naturalmente esistono anche gli altri montenerini. Benedetto, allora. Gran bel posto, peraltro, in moto. Gran bel posto. Benedetto. Sì. Eccoci, dica. Niente, io volevo esprimere da cittadino il mio pensiero politico circa questo referendum. Sì. Siamo al non cambiare niente. Io sono dell'avviso che una persona, non sono né di destra né di sinistra, io faccio l'artigiano, sono responsabile tecnico elettronico di una ditta. Sì. E contesto questo non far governare. Io volevo vedere se effettivamente sto Renzi era un ciarlatano o era una persona consona a quello che predicava. Volevo vedere se riduceva il numero dei parlamentari come stava promettendo, sentendo i suoi proclami in TV. Ma qui non si riesce mai a concludere niente. Però il referendum l'ha voluto e sovraccaricato lui, e alla fine gli italiani hanno scelto. Capisco che lei non si ritrovi nella scelta. Non credo che sia una questione politica, è una questione di economia in sostanza. Questa è una nazione che ha bisogno di governo e di ridurre le spese di politici che stanno mangiando l'Italia. Si figuri se non sono d'accordo. Il problema vero è che bisogna ricominciare ogni volta da capo, però, perché se andiamo a vedere, sa, gli interventi eccessivi di diminuzione della spesa pubblica non ci sono stati. Anzi, Renzi ha spiegato come è inutile che Giannino rompino i coglioni giorni io rialloco le spese, cioè non la riduco perché non la voglio ridurre. Questo è il punto di vista, sa, chi la vuole ridurre è minoritario, era minoritario, resta da questo punto di vista. Allora iniziamo, cari ascoltatori, cari compari, a fare un primo giro tra noi, perché poi dopo l'interruzione abbiamo un ospite sulla questione bancaria. Parliamoci chiaro, cari ascoltatori. Vi abbiamo detto innumerevoli volte in questi 7 mesi che era un errore appendere la vicenda del Monte dei Paschi al referendum, ed è stato così. È stato irresponsabile dire agli investitori internazionali, che non venivano avvicinati dall'ultima guida, dall'attuale management della banca di Siena, che dovevano subordinare la loro disponibilità a partecipare all'aumento di capitale richiesto dopo lo stress test della vigilanza europea solo a un esito referendario. Questo la politica e i regolatori italiani hanno fatto, e adesso si paga il prezzo anche di questa irresponsabilità. Peraltro la situazione è chiara, ve l'abbiamo spiegato 1000 volte, è una banca solvibile, sì, ma che è nelle condizioni di non poter sottoscrivere un aumento di capitale che è stato richiesto. Questo lo fa rientrare precisamente nella condizione dell'articolo 32 della direttiva europea per la recovery e la risoluzione bancaria, e questa banca non è in recovery, cioè non è in risoluzione, è nella fase della early recovery, cioè stiamo parlando di un aumento di capitale che è stato richiesto in vista del consolidamento dei suoi ratios patrimoniali. E in ragione di questo e della sua sistematicità per l'Italia, si prevede l'articolo 32,4 che in queste condizioni, qualora non sia nelle condizioni una banca suddetta di poter fare un aumento di capitale con risorse di mercato e attori di mercato, lo Stato può condurre un intervento al fine di consentire questo aumento di capitale precauzionale, nelle condizioni precise però di non fare aiuti di Stato a questa stessa banca, di non alterare l'ordine di seniority delle obbligazioni, cioè l'ordine di bail-inelibilità, come si dice, l'ordine di graduazione con cui si fa il bail-in. E a questo punto quindi il procedimento dovrebbe essere, stante l'insussistenza di attori del mercato, si prende il totale delle obbligazioni subordinate, oltre ad azzerare l'equity attuale della banca, le si trasforma in capitale. Il punto che resta aperto è come procedere all'eventuale ristoro degli obbligazionisti subordinati retail, visto che in Italia facciamo finta di dover prendere questi investitori come risparmiatori raggirati, cosa che se fosse del tutto vero dovremmo aprire un processo contro Banca Italia e Consum. Il processo non lo facciamo, e a quel punto il ristoro può avere come precedenti i criteri di ristoro per le 4 banche mandate in risoluzione. Così era chiaro già 7 mesi fa, così è chiaro adesso. Molti potranno dire no, non è vero Giannino, nel frattempo c'era il fondo del Qatar, mi scappa da ridere, nel frattempo c'erano i fondi americani di cui mi scappa da ridere, perché vedo la stampa italiana che continua a bersi qualunque cosa su queste vicende qua. Poi alla fine ci ritroviamo invece in queste condizioni. Questa è la semplice sintesi della condizione in cui siamo. Per attivare l'articolo 32,4 occorre un decreto legge del governo, e in questo decreto legge sono attese altre misure in ragione di altre 3 partite. Primo, i guai in corso sulla riforma delle popolari, vedi Bari, ne abbiamo accennato prima. Secondo, un'altra annualità al fondo interbancario dei depositi, perché nel frattempo è di nuovo corto di cassa, lo strumento della mutualizzazione imbecille preferita dai regolatori italiani al fatto invece di applicare la direttiva di risoluzione alle banche nei guai e solo a quelle. E tenete conto che ci sono problemi anche per le 4 banche risolte, visto che leggevo prima, sfogliando nelle pagine interne, pagina 29 di un giornale, che i costi delle 4 banche risolte sono cresciuti di altri 2,5 miliardi. Quindi si attende un decreto di questo tipo. Non sarà per questo fine settimana. Vi ho fatto la sintesi dopo l'intervallo opinioni. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte. conti della belva. Eccoci qua, il compare dei conti della belva si è unito su questo tema bancario anche Fabio Bolognini. Fabio Bolognini, amministratore delegato di Linker SRL, una carriera tra gestione finanziaria di grandi gruppi, un nome solo Pirelli, grandi banche internazionali, Citibank, grandi banche italiane, Unicredit, da qualche anno a questa parte consulente per l'impresa, per ristrutturazioni e problemi del credito e non solo, e da la pluralità di queste esperienze professionali accumulate nella vita, quindi un osservatore anche di quelle taglienti dei problemi delle banche italiane e dell'interfaccia che il problema sistemico bancario italiano ha con la crisi italiana. Grazie di essere con noi, Fabio. Buongiorno Oscar, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, io comincerei con considerazioni e domanda da parte di Mario Seminerio sulla vicenda MPS. Mario. Considerazioni, a me viene da sorridere perché questa era una cosa già scritta ampiamente nel corso del tempo e lo sappiamo tutti. Adesso effettivamente ci sono, come dire, le recriminazioni sull'esito referendario che ha fatto sparire gli investitori del Qatar. A me questa cosa ricorda molto il Milan, il closing del Milan con i cinesi, e prima ancora Mr. B, aspetta che arrivano, sono già pronti, stanno arrivando, non si vedono più, andiamo a cercarli. Però intanto quelli danno 100 milioni ogni tre mesi a Berlusconi. Ecco. Sì, cinesi, beh, sai, I cinesi è gente seria, e anche i milanisti. Per gli spiccioli. Sì, beh, quella è stata, quella è una bella operazione, a furia di prendere caparre, diciamo, esatto, a conti, alla fine risanerà il Milan tenendoselo. A parte questo, non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto. La banca ha una redditività operativa. Io da mesi scrivo e dico che, giunti al dunque, un esito possibile è quello di un 50-50, cioè la conversione del 50% delle obbligazioni subordinate e il tesoro che entra per l'altro 50%. Però la domanda è: 50% di che? Esatto. Visto che il valore al quale le sofferenze dovranno essere deconsolidate è stato, vabbè, negoziato con Atlante, c'è cioè del mistero, non si sa bene ancora quanto valgano, perché noi ci stiamo dimenticando questo piccolo dettaglio, sì, che è la chiave di volta di tutto l'edificio. Se dovesse continuare su quella base, mi aspetto effettivamente, cioè se continua in questa maniera. Ricordiamo nell'ammontare, però, perché stiamo parlando di un ammontare di totale di NPL che era 27,5 miliardi lordi. Nel frattempo sarebbero pure cresciuti un altro paio, quindi di un ammontare considerevole, insomma, ecco, per così dire. Certo. Su quello poi dalla scorsa estate era stato definito un percorso a TAP per la sua tranchizzazione, eccetera eccetera, una parte delle quali doveva andare ai soci pro capite, pro quota, un'altra parte coperta da GACS, un'altra parte coperta invece da specialist. Fai bene a dire che è quella la faccenda vera, è in concomitanza con l'aumento il capitale, altrimenti non si spiegherebbe, però non ne parla più nessuno di quello. No, infatti, ma a parte questo, la situazione è gestibile. Il problema è sul piano, come dire, manageriale e numerico è gestibile, sul piano politico non lo sappiamo. Però Oscar, come hai ricordato tu stesso, oggi sui giornali e ieri nelle interviste a caldo in televisione abbiamo sentito le solite lamentazioni patriottiche, sì, cioè la BCE non ci dà 5 settimane, dimenticando che il bubbone è in corso da 5 anni e oltre, è una vergogna, sono degli ottusi, c'è cioè il pilota automatico, ci vuole una sensibilità diversa, sinceramente trovo abbastanza desolante vivere in un paese che fa del vittimismo lo stile di vita. Dopodiché, ripeto, da una parte si dirà che è stato il no al referendum, dall'altra parte ci sono già i grillini che urlano, che vogliono la nazionalizzazione, no? Perché è della serie basta dare soldi alle banche, nazionalizziamole, no? C'è una lieve contraddizione di termini, però quando si fa della demagogia a buon mercato, e ne sentiremo sempre di più nei prossimi mesi, questi sono gli esiti. Comunque c'è poco da dire, aspettiamo gli eventi, credo, ripeto, che la situazione, malgrado tutto, sia sul piano gestionale gestibile. Il problema è il piano politico, però una riflessione che a me è venuta a caldo, e dopodiché mi taccio, è questa, no? Montepaschi mi ha fatto venire in mente Alitalia, cioè perché in questo maledetto paese, da una situazione di dissesto aziendale, che teoricamente dovrebbe essere gestibile, dovrebbe essere gestita. Si riesce a calciare la lattina in avanti per anni e anni e si porta queste situazioni di dissesto aziendale ad essere dei buchi neri radioattivi. Ecco, questa è l'unica domanda che io faccio a me stesso, a voi però, e a chiunque. Io la risposta che ti do è che, siccome, come incessantemente hai ripetuto per mesi invano, e come resta vero, se si intervenisse sul solo totale dei sub, i 5 miliardi si fanno, no? Perché questo è più o meno, no? Allora, perché questo? E quindi invece il meccanismo che proponi tu è quello di fare 50 e 50, consentito dalle norme europee, cioè 50 da swap e 50 da Stato. Quello che non si fa, perché non si fa questo? Per le proteste che sono viste per gli obbligazionisti retail, che a quel punto sono travolte nelle quattro banche? Sì, in parte. In parte è perché significa l'ammissione totale di colpa per i regolatori italiani che hanno consentito il mis-selling per anni ai risparmiatori a cui non dovevano andare questi titoli, e il bis in grande scala dei Tango Bonds. Questa è la responsabilità storica di Banca d'Italia e Consob. Questa è la responsabilità storica della politica, aver coperto, quando è esploso questa faccenda in maniera clamorosa, nelle quattro banchette risolte, ma si sapeva dal 2013, da quando poi arrivano i tempi di approvazione, e si sa che dal 2016 entra in vigore la BRRD, la copertura dei regolatori italiani della politica diventa totale. È per questo, cari ascoltatori, per coprire queste responsabilità, che vi si dice che le regole europee sono ottuse e non vanno applicate sullo swap. Il costo del kick in the bottle, dare un calcio alla bottina, è enormemente maggiore dello swap dei titoli banca per banca. Questo si vede in maniera clamorosa nelle quattro banchette risolte a novembre 2015, che continuano a essere fonti di perdite radioattive per via della sottovalutazione costante, ripetuta, sistemica dei regolatori tutte le volte che ci mettono mani dentro e dicono che è risolto. Risolto il piffero. Sentiamo che ne pensa però Fabio Bolognini. La prospettiva che ti chiediamo è non soltanto un giudizio tecnico su quello che ci aspetta su MPS, quanto complessivamente sugli elementi che hai raccogli su questa vicenda, perché hai scritto due giorni fa un post complessivo diciamo sul fatto, ma le imprese italiane hanno capito cosa è successo al sistema bancario italiano oppure no? Ecco. Ma io ho poco da aggiungere a quello che voi avete detto brillantemente, diciamo, sul corto raggio. A me piace cercare di capire l'evoluzione del sistema finanziario, del sistema bancario, che è così determinante in Italia, guardando un po' più indietro, quindi allungando la vista indietro e poi cercare di allungarla in avanti. Il caso di Monte Paschi è evidentemente un caso macroscopico, però io noto che in 7 anni, andando indietro a guardare i numeri di questa banca, non si è riusciti a raddrizzarla. Già. 7 anni in cui i ricavi non sono mai cresciuti, i crediti alla clientela sono calati del 25%, 20 miliardi complessivi accantonati per perdite su crediti, lasciamo perdere gli avviamenti, quindi vuol dire che non è stato fatto credito molto bene in questa banca. E quindi sono stati bruciati 2 aumenti di capitale, la conversione del prestito. Ora, tutto questo mi dice certamente che quando una banca si mette su una traiettoria sbagliata è come una porta aerei, raddrizzarla occorrono anni e anni, qui sono stati cambiati i manager, gli azionisti. Più volte la banca è stata dichiarata felicemente in salvo. E anzi, oggi c'era un presidente del Consiglio che invitava gli italiani a gennaio dell'anno scorso a comprare i titoli della banca risanata. Chiusa parentesi, Matteo, non dirle più ste stronzate, non serve una laurea, come hai detto tu. Chiusa parentesi. L'altro punto su Monte Paschi, ma questo vale anche per le 4 good banks in risoluzione, e probabilmente apprestiamoci a vedere lo stesso sforzo titanico sulle 2 popolari. Le banche italiane non interessano a nessuno, perché il Monte Paschi da tempo si diceva deve trovare un partner, deve essere venduto. La stessa cosa si è detta delle 4 good banks, che dovevano avere un'asta felice. Insomma, il punto è che l'attività bancaria concepita così come oggi ha una redditività, una marginalità così bassa e dei problemi strutturali così elevati che non c'è nessuno nel settore interessato ad aumentare le dimensioni acquisendo quote di mercato in Italia e una serie di problematiche. Questo è un fatto strutturale che fa molto pensare su quello che possa essere l'evoluzione guardando avanti. Monte dei Paschi è una banca che operativamente funziona, che ha ripreso anche, credo, un pizzico di entusiasmo all'interno della rete delle filiali, ma non funziona, è una banca che farà una fatica enorme a produrre un reddito maggiore e a coprire il costo del capitale che gli provenga dallo Stato, che gli provenga da investitori istituzionali. Questo è il destino di un settore che deve completamente cambiare la pelle. E cambierà la pelle cambiando anche i toni, se posso dire, Carlo Alberto, visto che ci sono stati descritti con... Sì, io chiedevo a Fabio proprio questo. Il 2017 sarà l'ultimo anno in cui potremo godere dell'ombrello di Draghi. Bravo. E quindi insomma, è l'anno della redazione. E quindi dobbiamo in un certo senso un po' scollinare il dibattito a questo punto, no? E vedere dove atterriamo. Atterriamo su un sistema bancario più consolidato, più piccolo anche in termini dimensionali, cioè giustamente scritto che non abbiamo un'ipertrofia delle banche in termini di mediazioni. La Capital Market Union indirizza anche quel problema qua, facendo nascere o sollecitando la nascita di nuovi attori di intermediazione finanziaria, dal private equity, dal venture capital, a forme di intermediazione basate proprio sulla tecnologia fintech. Come vedi il sistema bancario italiano nel 2017? Proviamo a traguardare un secondo oltre il dibattito corrente. Ma sai, il 2017 è dietro l'angolo e quindi io mi aspetto che la gran parte dei vertici delle banche sia ancora occupata in queste questioni di corto raggio, no? Si sta facendo qualcosina per posizionarsi su, diciamo, il nuovo mercato, ma quando tu hai delle priorità di questo tipo, che sono l'eccedenza di personale, di filiali, il taglio dei costi, sono oggi, diciamo, occupano, se tu leggi piano industriale trovi tantissimo sul costo del rischio, tantissimo sul taglio dei costi, pochissimo sugli investimenti futuri e su, diciamo, quali ricavi potranno arrivare in questo settore. Quindi io non credo che sarà l'anno di svolta, però potrebbe essere un anno importante proprio se riusciamo a capire che dai problemi delle banche deve uscire un mercato dei capitali più ampio, e io ho scritto che deve capirlo, diciamo, il sistema, il nuovo governo, ma devono capirlo anche gli imprenditori. Che si sono, diciamo, drogati di prestiti bancari al di là dei limiti di quello che la finanza aziendale normalmente prescrive. E che così poco lo capiscono che questo spiega perché le loro associazioni siano totalmente a braccetto con le collusioni di copertura dei regolatori bancari italiani. Totalmente. Questo è il mio giudizio storico anche nei confronti di questo gruppo editoriale. Dite quello che volete, sono pronto a pagarne il prezzo. Non cambio idea perché è un errore di prospettiva storico. Questo non è una compromissione di potere per coprire le pudenda italiane, è un errore storico quello compiuto dai regolatori negli anni alle nostre spalle. L'unico paese OCSE che aveva un canale funding preferenziale di clienti retail, visto che sarebbe pagato di più a piazzarle agli investitori istituzionali, è un errore storico non ammettere questo, non cambiare tattica, non capire che le banche sovracapitalizzate sono un bene non un male di questi tempi, diluire e dare la colpa agli altri. Questa è la mia opinione personale e di cui sono pronto a pagare il prezzo. Grazie Fabio Bolognini. Torniamo adesso dopo la pausa con Udo Gumpel. Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ha Allora, questa volta la weekend è la nostra rubrica è due volte più adatta, perché nel senso che sapete è la rubrica che usiamo alle 11.30 ogni sabato per sottolineare una frase, un detto da parte della politica, dell'economia, dei mercati e rifletterci sopra per che cosa questo comporta. E vi avevo già annunciato, come sempre era con noi Udo Gumpel, e gli avrei chiesto ragione dei durissimi attacchi che anche più prestigiose testate tedesche come la FAS, la Frankfurter Allgemeine, hanno riservato a Mario Draghi per la decisione della protrazione del quantitative easing, da cui siamo partiti con le parole di Mario nella puntata di oggi, e gli avrei anche detto avete picchiato e poi avete ottenuto, sempre Mario ha fatto benissimo a ricordarlo all'inizio della trasmissione, il fatto che in realtà per il prosieguo del quantitative easing si possono comprare anche i titoli tedeschi che prima erano inibiti perché rendevano troppo poco, quindi avete portato a casa un'altra bella fetta a vostro favore. E invece, mentre era partita la musichetta, mi hanno detto dalla regia: no, Udo Gumpel non può, quindi faremo noi tedeschi a questo punto. No, Oscar, non possiamo fare noi tedeschi, perché magari caro Carlo Alberto potessimo fare noi tedeschi. Noi ci possiamo avere la testa senza capelli. Beh, io il tedesco lo faccio ogni tanto. Tu ogni tanto fai il tedesco? Io riesco a fare concorrenza ai tedeschi, quindi questo significa essere tedeschi in parte. Quindi significa che sui mercati, nella tua parte di sport, l'impresa di Renato Cifarelli esporta parecchio il suo fatturato. 95%. Ecco, questo è esattamente la media di quanto faccio un'impresa italiana, ma 95%. E tu batti i tedeschi? E in qualche caso sì. Sì, sì, ce la giochiamo con un'azienda molto molto più grande, tra l'altro. Beh, molto più grande, fa molti più prodotti dei nostri. Noi, diciamo, nella nostra nicchia ce la giochiamo con i tedeschi. Ma perché siete una nicchia che ai loro occhi non vale niente? Ma non lo so, io so che ogni tanto usano noi come benchmark, quindi questo... Quindi vi considerano al contrario come esempio di backpack. Questo ti... Ma diciamo che... Avere le copie tipo Gucci. Senti, ecco, e i tedeschi che ti usano come benchmark, qualche piccola significa soddisfazione. Significa che il mestiere uno lo sa fare abbastanza bene. Carlo Alberto, ma dagli ascoltatori invece, ci dai qualche segnale complessivo di come gli ascoltatori hanno visto la... Che ho letto io è meglio lasciar perdere. Perché è meglio lasciar perdere? Se c'è gente che ci critica dobbiamo dare loro voce, gli sms mi andano apposta. No, ma devo dire che dall'esito del referendum ad oggi c'è stato evidentemente un rigurgito di... incavolatura da parte degli elettori nei confronti del governo. Sono usciti tanti commenti antigovernativi che magari prima erano sopiti, qui invece sono usciti in maniera esplicita. Però ci sono anche domande tecniche, no? Per esempio, a me fa piacere di dire questo. Sì. Su MPS, sulle banche, chiedono, per esempio, ma è un intervento di nazionalizzazione permanente o è un intervento temporaneo? È il caso di spiegare che sì, l'operazione che è in programma non è un salvataggio dello Stato, ma è l'applicazione di quanto prevede la direttiva europea in casi di questo genere qua. Se ci sono gli estremi di un intervento straordinario, interviene lo Stato membro che, in applicazione della direttiva europea, tampona l'eventuale richiesta o fabbisogno di capitale di una banca in difficoltà. In difficoltà, che non vuol dire però una banca insolvente, una banca che rischia la risoluzione, una banca che ha bisogno di essere rafforzata proprio per prevenire l'eventuale rischio nel medio termine. Questo va detto, perché sennò il rischio è di fare ancora una volta la guerra di religione, cioè l'Europa cattiva e lo Stato che interviene a favore dei risparmiatori. Non è così, lo Stato italiano non può fare altro che applicare quanto previsto dalla normativa europea. In questo senso è un intervento esplicativo che dobbiamo fare. Allora, per essere chiari, se andate, cari ascoltatori, a tirate giù il testo in italiano o in inglese, qualunque lingua dell'Unione Europea, il testo della BRD, la direttiva per la recovery resolution delle banche, andate all'articolo 32,4, ecco, troverete che al comma 4 c'è scritto: ai fini del paragrafo 1, quello che dice gli stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano avviare un'azione di risoluzione per un ente di cui eccetera eccetera, ecco, dice: ai fini del paragrafo 1 l'ente, in questo caso Monte Paschi, è considerato in dissesto, è in dissesto, no, abbiamo detto, o a rischio di dissesto, ecco, entriamo in questa fattispecie, in una o più delle situazioni seguenti. Ecco, nelle situazioni seguenti le troverete al paragrafo D, una individuata, che è il caso di MPS, che dice l'ente MPS necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario ad esclusione dei casi in cui, al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione dell'economia dello Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti. E tra le forme seguenti trovate sub paragrafo III, leggo: un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'ente, qualora nel momento in cui viene concesso sostegno pubblico non si verificano né altre circostanze. Quello che vi deve essere evidente è che quindi c'è una banca che è liquida e genera reddito operativo, sì, è prevista da norme europee, che però per la sua importanza sistemica, sì, ci possa essere un intervento qualora, necessitando un aumento di capitale, quello richiesto dalla BCE a Siena, non c'è la modalità di farlo con attori e metodi di mercato. Sì, allora lo Stato può effettivamente mettere un'iniezione di fondi propri, come quello l'articolo, la condizione III che vi ho letto, ma a prezzo, alla condizione precisa, che non ci sia un vantaggio all'ente. E che si rispettino quindi due principi fondamentali: il burden sharing e no credit worse off. Questo, esatto, è la sintesi estrema. Quindi non è un salvataggio di Stato, ma un intervento previsto dalla normativa che serve per evitare un bail-in. Questo cosa ha detto? Cioè è il vaccino contro il rischio di contagio. Anzi, a essere precisi, tutti i giornali che parlano di salvataggio di Stato, noi dobbiamo allargare le braccia dicendo: cari colleghi, non sapete di quello che parlate. E loro ci rispondono: i vostri tecnicismi sono incomprensibili, quello che è ovvio è che è un salvataggio di Stato. Lo Stato però non ci può rimettere soldi, perché vi sia chiaro, non può dare soldi a MPS in condizioni diverse dal mercato, tanto è vero che per questo si spiega la fattibilità di quello che diceva prima Mario e vi abbiamo sempre ripetuto in questi mesi, cioè si può intervenire perché siano rispettati questi principi con metà dell'aumento di capitale oltre al primo miliardo già risultante dall'esercizio dello swap da parte di investitori istituzionali come Banco Generale. Per la parte residua fare metà con conversione di obbligazioni e metà a quel punto lo Stato, non più di metà, ma dipendono da questi principi, queste modalità dell'intervento. Corretto, Mario? Sì, sì, poi diciamo questo: se si vuol parlare di nazionalizzazione, magari ce la lasciano anche fare sotto vincolo che dopo qualche anno bisogna rivendere, rimettere, esatto, la banca sul mercato. Visto che siamo sempre qui a vedere quanto è verde il giardino di chi non è in euro, in Unione Europea, ricordate che Royal Bank of Scotland continua ad avere seri problemi ed è posseduta dal tesoro britannico per il 73%, esattamente, e non riescono a rimetterla sul mercato, sì, per cui della serie ma gli altri non hanno l'euro, stanno meglio, sono le solite amabili stronzate. Perché con le banche le situazioni da gestire sono terribilmente delicate e complesse. Sentiamo qualche ascoltatore. Giovanni da Reggio Calabria. Giovanni, prego. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo soltanto sottolineare come a inizio anno il nostro premier Renzi aveva detto di investire nel Monte dei Paschi. Sì, che era risalata. Anche ai piccoli risparmiatori. Cioè, qui c'è una situazione molto delicata dove il nostro premier invece ha posto in evidenza invece tutt'altro. Qui se non interviene lo Stato in primis per cercare di, giustamente come dite voi, di intervenire nelle regole comunitarie, ma di intervenire, perché qui abbiamo soltanto evidenziato solo degli interventi un po' pagliacceschi, voglio dire, perché la situazione non è assolutamente cambiata in oltre 5 anni di default. Giovanni, io ti aggiungo che quando, prima della BRD, c'è traccia nella campagna elettorale tra dicembre 2012 e gennaio del 2013, Gennaro diceva: facciamo come purtroppo stavano facendo ognuno disordinatamente ogni singolo paese membro, cioè interveniamo, ripuliamo, azzeriamo l'equity, cioè azzeriamo la fondazione del partito, perché di questo si è trattato, ecco, forse che invece si è voluta quella, tutelare, quella volontà, sì. Allora, azzeriamo la fondazione MPS e a quel punto si entra col capitale pubblico, si ripulisce tutto e si vende. Questo pensava Genio all'epoca, perché lo consentivano le norme europee e perché era evidente che c'era una priorità da assumere rispetto alle responsabilità della fondazione e della politica, del partito, di un partito politico che per anni e anni e decenni ha gestito il Monte Paschi. Ecco, questo è il punto vero, che Ora, ma è tutto non detto, come vedete, perché aver fatto passare il tempo ha diluito questa che è la storia dietro Montepaschi e la responsabilità storica degli errori di Montepaschi. La politica è un partito. Maurizio da Milano, Maurizio, prego. Eccomi, Maurizio da Milano, ma poi in realtà da Malta, perché mi sono trasferito per lavorare qui. Ah! Io credo che risanare le banche, soprattutto sistemiche come l'MPS, sia un dovere dello Stato per poi liberalizzarle e togliere dalle griffe della politica. Ma sarà un esercizio del tutto inutile se io prima non consento ai produttori, quindi ai coltivatori, a chi produce l'economia, di poter fare utili. E se continuo a tassarli, stratassarli e continuo a creare giochi impossibili da valicare, sarà del tutto impossibile, sarà del tutto inutile. Quindi Maurizio ci dice sì, non è solo il problema del bancario, andando alle considerazioni sulle imprese italiane, ma l'hanno capito o meno quello che ci diceva prima Fabio Bolognini, amministratore delegato dell'Incar SRL. Il problema è che qui le condizioni dell'habitat, ma è questo che ti ha spinto ad andare a Malta? Il peso eccessivo dell'amministrazione pubblica e delle tasse? Oppure era uno sviluppo dovuto rispetto alle cose che fa la tua società? Maurizio? Beh, io facevo costruzioni, direi che il governo, costruzioni industriali, direi che il governo Monti ha azzerato il mio mercato, quindi sono dovuto andare a Malta per ovvi motivi. Ok, grazie a Maurizio per ovvi motivi, purtroppo amaramente riconosciuti. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci tornati in diretta nel frattempo sui siti regionali italiani. L'ipotesi Gentiloni, presidente incaricato, sembra acquistare ormai un peso rilevantissimo. Posso dire che non mi dispiace per niente. Ma perché? Ma tu c'hai questa cosa? Ma perché lui si accoda? Non è quello che io. Non ti dico che l'Italia ha bisogno di. Era renziano, adesso diventa gentiloniano. Sì, al prossimo e fammi giro. Dire che invece è come Confindustria, è sempre allineato quando è presidente. Finiamo in bellezza, qua vedo proprio. No, invece io penso cambiare linguaggio, cambiare tono, avere più riflessione. So, conosco Paolo Gentiloni, una persona molto riflessiva e molto attenta ai dettagli, che è in grado di ascoltare. Ricordo quando è stato ministro delle comunicazioni. Questo in effetti è riuscito, non era molto abile. Insomma, direi che un cambiamento di passo ci vuole, soprattutto per dare risposta col silenzio preoccupato alle urla dei populisti. Secondo me Paolo potrà fare un buon lavoro, quindi le premesse non sono negative. Vediamo. Va bene. Allora, Renato, ci devi fare concludere in maniera quasi prenatalizia. In due minuti ci dici la tua lamentela sull'impresa. Ma non è proprio, prenatalizia. Ah, ecco, allora, sì, pesante, non ti preoccupare. No, è una cosa da fine anno, nel senso che la caduta del governo, poi uno può piacergli o non piacergli il governo, eccetera, porta un po' di situazioni strambe, nel senso che abbiamo appena approvato la legge. Stai aspettando qualcosa dal mille proroghe pure tu? Ma no, mille proroghe, tanto dentro ci vanno tutte le porcate del mondo. Dando un altro anno di proroga al canone di concessione del servizio pubblico della RAI, una cosa scandalosa! Chiusa parentesi. Nel mille proroghe, sai che è una di quelle leggi mancetta dentro un po' tutto. Sì, no? Sì. No, il problema vero è che noi avevamo una situazione in cui c'era una buona situazione per gli investimenti con l'industria 4.0, perché si andava nella giusta direzione, secondo me, cosa che però in questo momento le aziende si chiedono cosa succederà, perché col nuovo governo, con tutte queste cose qua, sei a fine anno, c'hai il budget, c'hai da lanciare tutti gli investimenti, i tempi sono scarni, che fammo? Questo è il problema. L'incertezza uccide la ripresa. Non c'è dubbio. Anche perché tieni conto che su Industria 4.0 il procedimento messo in atto da parte del ministro Calenda aveva bisogno di molti atti attuativi, scelta di quattro punti di eccellenza universitaria che era stata fatta, ma andava tradotta in cose concrete. Questo speriamo che non venga abbandonato. Però ammettiamolo, un altro dei punti deboli di questo governo è stata la qualità della produzione pessima. Imparino a scrivere i nostri governanti, che hanno fatto disastri. Ma dai, che Paolo Gentiloni scriverà con la penna d'oca. come i suoi avi. Continuate con Vergherà. La 24 e grazie a tutti i compagni di Conti la Belva, voi in ascolto, continuate con l'ascolto, ma domani lunedì mattina non vi dimenticate alle 8:20 con me Alessandro Mina.